La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buone feste da Franco D'Assisi, buone feste fatte da fare. Questa è la puntata più natalizia, più di fine anno, più agghindata della Rosa Purpurea di questa stagione, perché siamo esattamente a cavallo fra le ultime uscite e l'ultimo rush finale che abbiamo commentato la scorsa settimana delle uscite natalizie. Questo panel, come dicono gli esperti, questo computo di film in sala non cambierà fino praticamente alla settimana dell'Epifania, e quindi siamo esattamente in un bel momento in cui ci si può scegliere un film contando su davvero numerosi decine di titoli che sono ormai nelle sale. E proprio questo sarà il compito di questa puntata: raccontarvi un po' tutto il cinema che c'è nelle sale, diviso per generi. Così, se volete scegliere di ridere, ridete; se volete scegliere di commuovervi, lo fate; se volete un film animato per stare insieme con tutti i vostri bambini, lo fate in egual modo. Insomma, avete tante scelte, comparate, non puntate appunto per una volta sull'attualità quanto su quella che è la proposta in genere che al cinema c'è in questo momento. E allora cominciamo subito a riepilogare e a cercare di entrare un po' nei temi della trasmissione ascoltando i nostri titoli di testa. Puntata speciale alla Rosa Purpurea con tutte le proposte per il cinema di fine anno. Ripercorriamo genere per genere i film presenti in sala, a partire dalla commedia italiana, negli ultimi anni regina degli incassi. Si va dai demenziali Due soliti idioti al raffinato Una famiglia perfetta, dal depanettonizzato Colpi di fulmine al grottesco Tutto tutto, niente niente. Molte alternative anche nel comparto animazione, un'offerta che spazia dal disneyano Ralph Spaccatutto agli europei Ernest & Celestin e La bottega dei suicidi, alle Cinque leggende, già campione di incassi. E se a guidare il plotone dei Colossal c'è Lo Hobbit di Peter Jackson, già in vetta al box office, per chi ama l'azione e l'avventura c'è Robert Redford col suo thriller politico La regola del silenzio, con un cast tutte stelle. Per i sentimentali, invece, Pierce Brosnan è il protagonista di Love is All You Need. Infine, come ormai da qualche anno, non mancano le proposte d'autore. E così il film delle feste può essere la bella commedia sociale La parte degli angeli di Ken Loach o lo stralunato Moonrise Kingdom di Wes Anderson, storia dell'amore di due adolescenti ostaggio del mondo dei grandi. E allora, questo il menù, come avete visto, molto ricco. Cominciamo subito. Questa prima parte della trasmissione sarà dedicata ai film d'animazione, che con le commedie italiane nello specifico, sono sicuramente i due poli più attrattivi del cinema delle festività di fine anno. Abbiamo già parlato la scorsa settimana di tre di questi film che compongono l'offerta, del resto usciti proprio a cavallo di Natale. Riepiloghiamo per chi non ci fosse stato l'altra volta, cominciando da quello che fra i titoli di animazione è candidato alla fine delle feste ad essere quello con il maggiore incasso. Stiamo parlando di Ralph Spaccatutto. Abbiamo mandato la nostra Chiara Pizzimenti a vederlo per noi. Sì, è il tema di Pac-Man, lo avete riconosciuto? Forse ci avete giocato, di certo non sapevate finora che anche i protagonisti dei videogames hanno una vita privata, quando la sala giochi chiude ovviamente. Fra questi c'è Ralph Spaccatutto. Spacco tutto! Sono 30 anni che lo faccio. Comincia a diventare difficile amare il proprio lavoro. Ci pensa Felix! Se non piace a nessuno per quello che fai, deve essere bello di sicuro fare il buono. Bella condivisione, Ralph. Io sono Zangief, sono un cattivo. Ciao, Zangief. Ralph, tu sei un cattivo, ma non vuol dire che tu sei cattivo. Zombie, cattivo! Ciao, zombie. Tu devi amarti. Io non voglio più fare il cattivo. Il sostegno dei cattivi anonimi non basta. Ralph abbandona, Felix aggiusta tutto il suo videogame e sale su un treno alla scoperta di nuovi giochi. Ci saranno conseguenze. Ralph è andato a Heroes Beauty? Doppio giochista! Non puoi venire meno al codice, Ralph! Dov'è quello che spacca? Il gioco è rotto, finiremo fuori servizio per sempre! Senza Ralph siamo spacciati! Ralph però non lo sa ancora, dimostrerà il suo valore cercando una medaglia nel resto del mondo giocoso. In particolare aiutando Vanellope, bistrattata e imperfetta pilota nelle dolciastre gare di kart in Sugar Rush. Do Toy Story ha sdoganato l'altra vita dei giocattoli. Shrek ha restituito dignità e cuore ai cattivi della tradizione. Ralph Spaccatutto, firmato Disney, entra in questo filone di film d'animazione, non più solo favola. La morale disneyana non è qui solo trionfo del bene, ma soprattutto accettazione di sé, dei propri limiti, del valore e del ruolo che ognuno svolge nella società. Pur perdendo vigore e ritmo nella parte centrale, Ralph incanta visivamente e nell'originalità dello sviluppo dell'altro mondo elettronico. Fa fare anche ai più giovani una piacevole passeggiata in sala giochi. E allora questo il Ralph Spaccatutto e chissà se sarà anche la Chiappatutto del box office natalizio. In sala già da qualche settimana c'è Le Cinque Leggende, che ha superato i 5 milioni e mezzo di incasso in Italia. È un incasso ragguardevole per un film che propone personaggi sicuramente amati, soprattutto oltreoceano, molti solo oltreoceano, del mondo delle fiabe, che magari in Europa sono meno conosciuti, ma che hanno fatto breccia sicuramente nel cuore dei bambini. Allora, sentiamo questa clip. Oh no! Babbo Natale! Il coniglietto di Pasqua! Sandman! La fata del dentino! Sapevo che sareste venuti! Sorpresa! Siamo venuti insieme! Psst, ragazzi, è ancora sveglio! Sandy, stendilo! Eh? Con la sabbia magica, scemo! No, ferma! È il coniglietto di Pasqua! Che fai, Abby? Sta giù! D'accordo, tranquilli, niente panico. Ma questo cane è un levriero. Ricordiamo che completano l'offerta La Bottega dei Suicidi di Patrice Leconte, un nome nobile del cinema in carne e ossa dietro questo singolare film d'animazione francese, e un altro film francese, Ernest et Célestine, forse la proposta più interessante per i più piccoli, anche se anche qui nobilitato dalla sceneggiatura firmata da Daniel Pennac. Boris Sollazzo, eccoci insieme, buone feste anche a te e benvenuto qui con noi, questa volta un po' a sguazzare qua e là nella proposta cinematografica, quasi La Rosa Purpurea oggi fosse un grande multiplex nel quale vedere davvero un po' di tutto. Dovessi scegliere una proposta d'animazione, quale sottolineeresti? Beh, io proprio La Bottega dei Suicidi, francamente, anche se la censura ha provato a nasconderlo a tutti dandogli 18 anni, poi per fortuna nel ricorso c'è stato un rinsavimento e quindi la commissione di revisione cinematografica l'ha aperto a tutti. Credo che La Bottega dei Suicidi, come Frankenweenie, che arriverà nel 2013, sia una vitalissima e bellissima riflessione sulla morte e su quanto nel convivere con quell'idea si possono invece trovare tante belle ragioni di vita. Poi è sorprendente come Leconte riesca a padroneggiare, a mio parere, dicendo anche una piccola cattiveria forse sulla sua cinematografia precedente, come riesca a padroneggiare molto meglio l'animazione. Tutte quelle che sembravano leziosità e sentimentalismi nell'animazione diventano asciuttezze, diventano cose belle da vedere, e anche quella sua inclinazione al melò ovviamente nell'animazione ha tutto un altro aspetto. Quindi devo dire che La Bottega dei Suicidi mi ha davvero sorpreso fino al finale, che insomma gli aprirà il cuore, che comunque non tradisce tutto il tono malinconico del film. Quindi ecco, io per l'animazione voterei quello, anche se sicuramente ce ne sono altri validissimi come la Spaccatutto, però insomma quello mi sembra veramente un film di una poesia unica, e per chi ama questo queste cose un po' dark, aspetti anche il nuovo Tim Burton, che è veramente speciale. Infatti abbiamo proprio detto e chiosato nella scorsa puntata della Rosa Purpura, in fase di recensione della Bottega dei Suicidi, che c'è molto Tim Burton dalle parti di Patrice Leconte, almeno in questo caso. Allora, questo per quel che concerne il comparto dell'animazione, che come abbiamo detto in apertura di trasmissione è sicuramente uno di quelli che dominano tradizionalmente il botteghino natalizio e di fine anno. Lo dominano un po' meno negli ultimi anni, perché d'animazione ce n'è tutto l'anno. Una volta si aspettava Natale per portare i bambini al cinema a vedere il film Disney. Adesso non è più così. Tutte le settimane c'è praticamente una proposta d'animazione. Molti blockbuster d'animazione cercano altri momenti dell'anno, il ritorno dalle ferie, per esempio, oppure la primavera, per scatenare i loro pezzi da 90. Insomma, negli ultimi anni la commedia, e soprattutto la commedia italiana, ha guadagnato molte posizioni nel botteghino natalizio, e non è per il cinepanettone, che invece è andato via via scomparendo, e anzi forse, come vedremo, questo è uno dei primi anni in cui ce n'è un po' meno. Cominciamo allora a buttarci dentro il genere della commedia italiana, rappresentato in maniera molto forte anche negli incassi già ottenuti sin qui, e figuriamoci da qui alla fine delle feste. Cominciamo ad ascoltare la clip e poi due parole del regista del Peggior Natale della mia vita, Alessandro Genovesi. Non è vero che sono cose che possono succedere. In che senso, scusi? Sono pochissimi nel mondo quelli che scivolano su un misto di urina e sughetto di tacchino e battono la testa sul pavimento per colpa di uno che ha pisciato nella pentola credendo fosse un water e il giorno dopo muoiono. Quindi non è vero che sono cose che possono succedere. Ho provato a costruire una storia che avesse delle caratteristiche e che sono principalmente comiche, ma anche in qualche maniera romantiche, e soprattutto cose che, così per gusto mio, cose che stanno a cuore a me, che avesse una nota surreale e in qualche maniera favolistica. Ed è uscita esattamente questo, è una favola che fa molto ridere, che ha dei momenti così emozionanti, e tutto condito dalla neve che cade dal cielo. E questo allora era Alessandro Genovesi, regista del Peggior Natale della mia vita, dopo la peggior settimana della scorsa stagione, già quasi 8 milioni raccolti al cinema, una delle proposte con le maggiori possibilità. Ha parlato di un tocco di surreale, Genovesi. Beh, certo, ce n'è tanto tra surreale e grottesco in tutto niente niente di Albanese. L'Italia sta negando sotto un'ondata di ruberie, di criminalità, sotto una marea scura di brutta gente. Però ho avuto l'idea che risolve i problemi di tutto il nostro paese. Italiano diventa austriaco. Questa è la soluzione di Antonio Albanese. Il film è di Giulio Manfredonia in termini di regia, diamo a Giulio quel che è di Giulio, insomma, di Antonio Albanese inteso come film permeato totalmente dai tre personaggi questa volta di Albanese. Primo blocco, parliamo fra il grottesco e il surreale. Boris, cosa ti ha convinto di più, Albanese o Genovesi? No, sicuramente Albanese, perché comunque certo, comunque Frengo, anche Ulfo Favaretto, che di sicuro è il meno riuscito dei personaggi, è un nipote alla lontana in tutti i sensi del Perego che ci aveva fatto impazzire alla fine degli anni 90 in Giù al Nord, sono comunque dei personaggi potenti, e anche la storia e il racconto di tutto niente niente è un racconto che cerca di fare uno sforzo in più, a partire dalle scenografie tardo imperiali di Albanese, che hanno solo il torto, probabilmente, sia le battute sia l'ambientazione, di essere ormai troppo vicine alla realtà. Non se lo poteva immaginare Albanese, Manfredonia, Guerrera e tutti gli altri che hanno scritto il film quando hanno iniziato a scriverlo, ma purtroppo poi le feste vestite da antichi romani o le ruberie varie di personaggi improbabili sono diventati elementi di cronaca e non più comicità grottesca. Per quanto riguarda Genovesi, il Peggior Natale della mia vita mi sembra la cosa francamente più vicina al cinepanettone che abbiamo visto quest'anno. Diceva Genovesi che era molto surreale e poco volgare. Francamente io non ho trovato molta surrealtà, anche se è vero che De Luigi secondo me ha qualcosa di Peter Sellers, e che in alcuni momenti, come nell'episodio di Alef Franz, questo surreale è molto divertente, ma per il resto io ci ho trovato un abbandantuono molto sciatto, chiatti e capotondi che insomma non sembrano fatte proprio per la commedia, e il resto che rimane è davvero pochino. Insomma, mi sembravano tutti molto distratti, anche se poi gli incassi gli hanno dato ragione. Quindi ecco, se devo dare una sancire una vittoria, direi sicuramente Albanese. E allora, questo per quanto concerne la prima parte delle commedie italiane. Adesso giochiamo insieme. Potevamo non farvi il game nella settimana, nella puntata più natalizia e più festiva e festaiola della fine anno? No, ovviamente. E allora andiamo con la prima traccia del DVD game di oggi. Neanche prima di diventare un eremita partecipava a queste serate? Il ricavato serve per il buffet pantagruelico. Non c'entra la beneficenza. C'entra l'ego della gran dama di turno che l'ha organizzata. La Rosa Purpurea @radio24.it. Come sempre, diteci titolo del film e vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per chi ci ascolta nella puntata, diciamo, originale e nella sua replica. Più tardi avremo ovviamente altre due clip da farvi ascoltare. Andiamo avanti con le commedie italiane. Demenziale, Chiama il demenziale non può che collegare questo genere ai soliti idioti, che dopo il boom da internet alla televisione, dalla televisione al cinema, tornano sul grande schermo con i due soliti idioti, che è non un sequel, è un'altra puntata, è un altro capitolo, sono altri sketch anche con altri personaggi. Sentiamone una clip e poi Biggio e Mandelli al secolo, i soliti idioti. Arriviamo per salvare. Gianluca, c'è un antico detto dei paraculo che dice: rosso di sera, bel tempo si spera. No, t'ha vinto al culo. Tutti in giro col cappello, con il becco, sì. Brillanti nell'orecchio, sì. Tieni, zio. Oh, zio, devi stare tranzollo, capito? Ti metto le mani in faccia. Si parte al cinema. Non è Gianluca che mi preoccupa, è quell'altro. Gianluca, Giamaica! Giamaica! In Giamaica cade il cazzo! State zitto, Gianluca, stai sempre a parlare! Ciao, Adriziano sul naviglio! Minchia, oh! 300.000 euro. Ma certo che non ho mai pagato i tassi, lo sa meglio di me. Capitano, il sospettato non è in casa. Succhia. Where is the old man? Where is my car? Secondo te li ho presi? E speriamo, Gianluca, sennò che cazzo spari a fa? Si è abusata di questa, abusato di questa parola volgare, no? Non è... È un po' riduttivo dire che è volgare, cioè è come se uno ti indica la luna e tu guardi il dito, insomma. È chiaro che c'è un linguaggio molto forte all'interno dei soliti idioti, soprattutto per quel che riguarda Ruggero e Gianluca. Però il tentativo rimane sempre di raccontare la realtà che ci circonda, quindi non voglio dire che siamo uno specchio, perché non spetta a me dirlo, però insomma tutti i nostri personaggi nascono da quello che noi vediamo intorno a noi. Poi sicuramente noi facciamo delle cose che probabilmente gli altri non hanno il coraggio di fare o di mettere in scena, e quindi probabilmente questa cosa fa imbestialire qualcuno, però non ci possiamo fare niente, nel senso, a noi diverte ancora fare i soliti idioti, evidentemente la gente per il momento si diverte. Con questo secondo film abbiamo tentato di fare una trama un pochino più cinematografica, però sempre mantenendo questa rottura di schemi che a cui teniamo molto, insomma, capito? Noi vogliamo rompere gli schemi. Vogliamo rompere gli schemi, proprio romperli fino a che la gente non ne può più. Insomma, dissacranti anche nelle interviste, come sempre. Ogni intervista con Biggio e Mandelli è davvero un'avventura. Boris, non so se è capitato anche a te di intervistarli. Sono praticamente impossibili da intervistare, perché sono davvero due battitori liberi. E dietro questa loro comicità apparentemente fine a se stessa, probabilmente anche fine a se stessa, riescono comunque, a mio modo di vedere, a trasmettere qualcosa sulla loro generazione e sull'Italia di oggi, che magari non è lo scopo principale che si prefiggono, ma è una cosa, una missione in cui riescono. Guarda, devo dire che io, avendo gli intervistati, li trovo più divertenti nelle interviste che nei film o nelle serie. E secondo me il problema dei soliti idioti sta proprio tutto là, cioè, o ti piacciono o non ti piacciono. Abbiamo ormai avuto 4 serie televisive e un film oltre a questo per poter valutare se quella comicità ci appassiona o meno, e credo che si debba scegliere in base a quello se andare al cinema, perché è una comicità che o ti tira dentro perché ti senti rappresentato o comunque ci vedi qualcosa di rappresentativo, oppure ti lascia completamente fuori e allora rischia di annoiarti a morte. A mio parere loro non fanno uno straordinario uso della demenzialità, nel senso che mi sembra che siano estremamente talentuosi. Io penso a Mandelli al cinema, in Generazione 1000 euro, a Natale a Miami, e secondo me la volgarità o comunque quel linguaggio forte gli impedisce di essere bravi come può essere, che ne so, uno Zalone, o nella musica o nelle storie tese, cioè di praticare la reale demenzialità. Alla fine la parolaccia è quello a cui si fermano, e non vanno oltre, e questo è la cosa che non mi appassiona. Mi sembra come se diventi una barriera, un muro, e non qualcosa che riescono a superare, insomma. Per intenderci, South Park o i Griffin, che sono altrettanto volgari e forse anche più estremi, riescono, secondo me, a essere più demenziali e più rappresentativi di quanto possano essere i soliti idioti. Di sicuro è interessante quello che dicevi tu, no? Che alla fine diventano, loro malgrado probabilmente, uno spaccato sociale, se escludiamo forse la prima scena in cui addirittura c'è un assalto al multiplex di motorini, che insomma ogni produttore, ogni distributore si augurerebbe, ma che in questo momento di crisi non corrisponde alla verità. Non sembra essere esattamente la scena che vediamo, chissà, forse durante queste feste. Devo dire che la mia commedia italiana natalizia preferita fra quelle di cui stiamo parlando è senza dubbio Una famiglia perfetta. Ma dove eri finita? Eh? Che succede? Che cos'hai? Mi ha baciato. Ho visto. Bene, benissimo. Vuol dire che stai entrando in parte, no? Ma come bene? Cazzo, sei mio marito, ti dovrebbe scocciare. Carmen, ma sei un'attrice. Gli attori si baciano, ti sei baciata mille volte. Sì, ma erano attori. E non siamo attori adesso? No, lui no. E fai finta che sei un attore, che cambia? Allora, se mi chiedi di andarci a letto, io ci vado, giusto? Tanto sono attrice. No, no, in quel caso gli dici che hai mal di testa, a me lo dici sempre. Un film, Boris, non so cosa ne pensi tu, ma l'ho trovato ben scritto, anche se ricordiamo alle spalle c'è un film famiglia di Leon de Aranoa, spagnolo di un po' di anni fa, però insomma ben riscritto, diciamo, ben adattato a quelle che sono le connotazioni italiane, insomma, di questa storia, recitato molto molto bene da un cast ottimamente amalgamato, molto equilibrato, dove i vecchi, fra virgolette, come Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, una bravissima Francesca Neri in questo film, si amalgamano bene con le nuove leve che vengono mostrate a volte, non, se non per la prima, per le prime volte in questo film. Un po', non fatemi fare paragoni troppo alti, però c'è un po' di Pirandello e c'è anche un po' di Chekhov, a mio modo di vedere, in questa situazione di questo ricco benestante che per il suo Natale si organizza una famiglia a gettone di attori che devono recitare il ruolo, ma scopriremo che vita vera e recitazione si fondono e si confondono. Guarda, sono d'accordissimo con te, penso non ci sia nessuna esagerazione a dire Pirandello, Chekhov, ma anche Rico Quarto. C'è una potenza in questo film straordinaria che deriva dal fatto che probabilmente non è solo la più bella commedia delle feste, ma a mio parere è forse il film italiano più bello dell'anno, se si esclude Diaz, che è di tutt'altro genere, perché i motivi sono tanti. Penso a Sergio Castellitto, che nella prima mezz'ora ci fa quasi vivere un thriller emotivo in cui non sappiamo dove sta andando a parare il film, che ci riempie d'angoscia e lo fa semplicemente con la sua faccia, con la sua recitazione, con l'inquietudine che trapela da lui e dagli altri. Penso a Marco Giallini, che qui secondo me fa il primo ruolo veramente completo della sua storia, infatti è molto meno comico del solito, cioè si esclude ovviamente Acab, in cui non a caso aveva fatto vedere tutto il suo talento. Poi c'è una straordinaria regia, che è quella di Genovese, che secondo me ha la necessaria umiltà per mettersi al servizio della storia, ma comunque riesce a dare le sue pennellate. E per onestà diciamo pure che è vero che l'incredibile e potentissima idea di fondo è quella di famiglia, ma poi il film è stato riscritto in maniera completamente diversa. Quello era un thriller con anche dei morti, qui è una commedia, per quanto malinconica, per quanto nera, ma comunque è una commedia, e davvero, avendoli visti tutti e due, al di là dell'idea di partenza, c'è poco legame tra i due film, pur essendo entrambi film molto molto belli. Quindi io devo dire che lo consiglio caldamente, non solo per questo Natale, ma per i mesi a venire. Allora, questo è il comparto commedia italiana, insomma, tanta roba, come si suol dire. E continua anche la Rosa Purpurea, la nostra carrellata nelle sale cinematografiche e in quello che ci si trova in queste feste, la grande proposta delle sale. Cambiamo sala, facciamo finta appunto di essere nel nostro multiplex, cambiamo sale, andiamo in quel comparto dove ci sono film drammatici, film d'azione, anche film d'autore, insomma le alternative al classico prodotto natalizio. Dicevamo, cominciamo con gli autori, che da qualche anno a questa parte sono diventati un po' una costante del periodo natalizio. Grazie al cielo qualche distributore si è accorto che ci sono anche tanti spettatori che durante le feste di Natale e Capodanno vogliono andare a vedere un film di marca, diciamo così, no? Un film con dietro una mano che sappia dire stilisticamente e narrativamente qualcosa in maniera magari personale. E ce n'è parecchio di prodotto in questo senso. Cominciamo con Moonrise Kingdom, che diciamo così è una apologo al cinema di Wes Anderson, perché Wes Anderson è l'ennesima potenza. Sentiamo questa clip. Avevo della sabbia in bocca. Sai baciare alla francese? Credo di sì. C'è qualche segreto. Le lingue devono toccarsi. D'accordo, proviamoci. Sembra duro. Ti dà fastidio. Mi piace. Inclina la testa da un lato. Puoi toccarmi il petto. Io credo che cresceranno di più. L'amore è impossibile o comunque molto ostacolato fra due adolescenti nell'America degli anni 60 al centro di Moonrise Kingdom. Anche qui una parata di stelle nel cast e la cifra stilistica colorata e tutta particolare di Wes Anderson. Uno che ci mette il suo marchio anche sempre nei suoi film è Ken Loach, che torna, è tornato nelle sale italiane con La parte degli angeli di Angel Scher, una commedia sociale potremmo chiamarla, ancora una storia di redenzione, di voglia di riscatto, non sempre reso possibile dalla nostra società. Anche se tu volessi cambiare, loro non te lo permetterebbero. No! La condanno a 300 ore di lavori sociali. Stavi più sicuro in galera, brutto cazzone! Sei arrivato troppo tardi. Io devo fare le mie ore, per favore. Sì, a bambini, una volta solamente, Robby. E sarà attraverso il whisky che ci si riscatterà in questo caso nella bella commedia di Ken Loach. Abbiamo messo nella sezione d'autore volutamente, perché lo è assolutamente, uno dei più grandi creatori di colossal della storia del cinema. Stiamo parlando di Peter Jackson, che sta già razziando incassi a destra e sinistra in Italia e negli Stati Uniti con lo Hobbit. I visitatori mi piacciono come ogni altro Hobbit, ma preferisco conoscerli prima che vengano in visita. Il signor Baggins al vostro servizio. Sono circondato da nani. Che ci fanno qui? Oh, sono una combricola alquanto allegra. Dunque, questo è l'Hobbit. Mi avete chiesto di trovare il 14° membro di questa compagnia e io ho scelto il signor Baggins. Io? No, no, no, no. Gli Hobbit passano spesso inosservati se vogliono, il che ci dà un preciso vantaggio. Coglieremo questa occasione per riprenderci Erebor. Yeah! Allora Boris, tre proposte molto diverse che abbiamo voluto inserire qui nel comparto degli autori, perché cosa propende il tuo gusto? Ma Ken Loach, direi sicuramente Ken Loach, perché è sorprendentemente divertente, insomma. E credo che in qualche modo il cambio di questo mondo, la precarizzazione costante, la creazione di nuovi ceti proletari abbiano aiutato Loach ad allargare un cinema che a volte veniva irretito dall'ideologia. E questo lo ha portato, come già in Looking for Eric, a cercare anche molto di più la strada della commedia. Questa è una commedia alla Riff Raff, molto divertente, con questi quattro moschettieri scalcagnati che cercano nel whisky, e avete sentito bene, proprio nel whisky, il proprio riscatto, un riscatto totalmente onesto e sano, non vi preoccupate, e inizia una sorta di heist movie tra i più scalcagnati e probabili che ci siano, con dialoghi divertentissimi e una storia molto molto appassionante. E quindi sicuramente vi consiglio quello, ma vi consiglio anche Anderson, perché Moonrise Kingdom è, come dicevi tu, una specie di album di famiglia di Anderson, fatto con la gioia e le felici intuizioni che aveva trovato già in Fantastic Mr. Fox. Temevamo di averlo perso dopo il treno per Darjeeling, invece sembra che l'abbiamo ritrovato meglio di prima. Qui mi piace sottolineare, secondo me, oltre la straordinaria interpretazione dei due bambini protagonisti, che sono veramente clamorosi, un Edward Norton che nella parte di un goffo boy scout trovo assolutamente irresistibile. La bocciatura, secondo me, invece, è quella dell'Hobbit. L'Hobbit era già uno scritto che, per quanto riguarda Tolkien, era uno scritto minore, fatto 17 anni prima. Il problema è che Peter Jackson ha fatto prima Il Signore degli Anelli e poi L'Hobbit, quindi non ha la giustificazione come Tolkien di essere allora ancora immaturo, aveva tutti i termini e le possibilità per fare un film molto migliore. A mio parere, da una parte le innovazioni tecniche, 48 fotogrammi per secondo e un 3D secondo me non necessario, e dall'altra una storia sicuramente non epica, etica ed interessante come quella precedente, e il malinteso per cui si vogliono comunque unire le due cose portano il film ad essere una grandissima incompiuta, e quindi forse la delusione non solo di queste feste ma dell'anno. E allora a questo punto noi giochiamo ancora insieme ascoltando un'altra traccia del nostro film misterioso. Perché perde tempo a tentare di parlare con un uomo che ha gettato via il suo investimento su un inutile progetto per salvare il mondo? Lui non può ridarle i suoi soldi, io sì. Adesso potrei spiegarle che quel progetto per salvare il mondo, inutile o no, vale l'investimento, signor Daggett. La Rosa Purpura è @radio24.it. Di che film si tratta? Vostro indirizzo, provate ad aggiudicarvi una copia del Blu-ray di questo film. Più tardi avremo l'ultima traccia. Ci restano ancora due film fra quelli di cui vogliamo parlarvi per questa carrellata, ampia carrellata natalizia. È tornata Suzanne Bier, è tornata con la sua cifra, quella del Melò in Love is All You Need. Non sono sicuro di ricordare come si fa, ma sarei lieto se mi concedessi l'onore del prossimo ballo. Ma certo. E allora queste sono le note di Tintarella di Luna, la musica italiana fa da sfondo a questa storia d'amore, di sofferenza, di tradimento, di outing anche in un certo senso, firmata da Suzanne Bier con Pierce Brosnan protagonista, una storia che piacerà a chi più cerca appunto anche del sentimento, il classico dramma d'amore in questo Natale, così come chi cerca invece il thriller, la spy story, il thriller politico, amerà probabilmente La regola del silenzio. FBI, non si muova, mani in alto! Lei è in arresto per l'omicidio di Hugh Krasny. Sharon Solars, una tra i principali ricercati dall'FBI e da tempo latitante, è stata arrestata ieri, 30 anni dopo la famigerata rapina alla Bank of Michigan, costata la vita a una guardia giurata. Sei in ritardo. Se non ci sono, non può licenziarmi. Chi è il tuo miglior reporter? Nicholas Sloan, il terrorista dei Weather Underground, è ancora latitante. Hai ancora quell'amica all'FBI? Non so se vuole parlarmi. Portami il pezzo e non ti licenzio. Boris, ti rimangono una decina di euro e un film da vedere fra la Bier e Robert Redford. Io so dove vai. Guarda, secondo me ti stupiresti, però sì, forse alla fine, se proprio ho 10 euro e non riesco a farmi dare qualche euro in più per vederli tutti e due, direi Redford. Meno male. Forse quello che tu immaginavi, ma proprio perché non riesco a resistere al richiamo di quel cinema civile e soprattutto di quell'attore straordinario, e perché in quel film ci sono dei monologhi che secondo me, mandati in filo di fusione nei nostri parlamenti, e parlo non solo di quello italiano, ma di tutti i parlamenti, probabilmente cambierebbero anche il mondo. Detto questo, il film della Bier secondo me è un film adorabile, perché a suo modo è un pop kitsch d'autore e anch'esso civile, perché parla di quanto può essere una donna, di quanto può essere bella una donna come Trine Dirrolm anche se attaccata da un tumore, parla di identità sessuale, parla del dolore, dei sentimenti e della forza che un sentimento tipo con cui ti può spingere a superare anche le barriere sociali e di classe, insomma parla di tante cose con una leggerezza che alla Bier non avevamo mai visto e che secondo me le dona moltissimo, devo dire. Insomma, da una parte c'è un Redford che non ci stupisce ma ci esalta, e dall'altra c'è una Bier che ci stupisce e ci esalta lo stesso. Quindi cercate di trovare gli altri 6 euro per andare a vedere tutti e due. E questo mi sembra un ottimo consiglio, ma ce ne vorrebbero tanti per andarli a vedere tutti. Boris, grazie davvero per averci accompagnato in questa carrellata, e insomma con La Rosa Purpura noi ci sentiamo l'anno prossimo. Assolutamente sì, buon anno. Ancora insieme alla Rosa Purpura, la quarta parte del nostro programma è dedicata anche in quest'ultima puntata dell'anno al cinema da vedere in casa. Abbiamo fatto una selezione straordinaria oggi, un sacco di musical, chissà com'è, anzi sicuramente c'è un nesso, visto che a mandarli in onda è lo stesso canale, quindi c'è tutta una regia dietro questa cosa. Iris si dedicherà al musical, e allora abbiamo voluto finire cantando e ballando questo 2012. Ne parliamo con gli amici di Film TV, con Giulio San Giorgio che è con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Allora, cominciamo Giulio questa carrellata musical con The Producers. Sì, The Producers su Iris alle 18.25, un divertentissimo remake di Per favore non toccate le vecchiette di Mel Brooks, in cui un produttore teatrale decide di mettere in scena volutamente un flop che però sotto ogni punto di vista si rivela un inaspettato successo. Un passo indietro di una ventina d'anni, diciamo, quasi, Jesus Christ Superstar, un altro musical che ha riscritto la storia della commedia musicale moderna. Sì, su Iris alle 23.20 questa versione hippie delle Sacre Scritture che suscitò molte polemiche. Le musiche divennero una hit ma erano già famose grazie al musical teatrale. È veramente un cult assoluto che quasi non ha bisogno di presentazioni, ma che va solo cantato a squarciagola mentre scocca l'anno nuovo. E tornando ancora parecchio indietro invece con il tempo, al 1969 una straordinaria Barbara Streisand era protagonista del coloratissimo Hello Dolly. Sì, su Iris alle 11.50, quindi qui parliamo della mattina, Barbara Streisand e Walter Matthau sono diretti dal genio di Gene Kelly nella storia di una modista che vuole farsi sposare in ogni modo da un ricco scorbutico. Louis Armstrong nella sua ultima apparizione cinematografica, un gioiellino dimenticato. E in mezzo a questa abbuffata di musical non poteva mancare quello che è sicuramente il titolo più anomalo della produzione musical di grande successo, ovvero La piccola bottega degli orrori. Esattamente, questo nel pomeriggio alle 16.30, sempre su Iris, ispirato a un musical di Broadway che a sua volta era tratto da un piccolo e geniale film di Corman, un musical veramente delirante che rivisita il mito di Faust, dove Mefistofile, tanto per spiegare il tono del film, è una pianta carnivora extraterrestre ghiotta di carne umana, veramente divertentissimo. Ricordiamo allora, riepiloghiamo gli appuntamenti con Iris, lunedì 31 dicembre alle 18.25 The Producers, il giorno dopo, il giorno di Capodanno, anno, Jesus Christ Superstar alle 23.20, Hello Dolly alle 11.50 del mattino, nel pomeriggio La piccola bottega degli orrori alle 16.30. Grazie Giulio San Giorgio e gli amici di Film TV e buon anno anche a tutti voi. Buon anno ai radioascoltatori, un saluto a te Franco. E allora, a questo punto è arrivato il momento di giocare con la terza e conclusiva traccia del gioco di oggi. Questa bomba è armata! E questa bomba è mobile! E l'identità di chi la farà esplodere è un mistero! Perché uno di voi ha in mano l'innesco! Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il vostro nome, cognome e indirizzo insieme al titolo del film, ovviamente alla rosa purpura, @radio24.it. Per provare a vincere la edizione in Blu-ray di questo film per il primo tra gli ascoltatori del sabato e della domenica. 7 giorni fa avevamo giocato così. E non può essere il 95, ci sono le onoranze funebri. Ah, allora ci siamo. Come sarebbe ci siamo? Il signor Santoli fa questo mestiere. Stai scherzando? Ha un'impresa di pompe funebri e non farla tanto lunga. Ah, Gesù, il figlio è comunista, il padre fa il beccamorto, la madre dirige un lebrosario. Si trattava di Woody Allen, si trattava dell'ultimo Woody Allen, To Rome with Love, il film interamente ambientato a Roma, quello che è il canto romano che fa da contraltare un anno dopo al canto parigino di Midnight in Paris, sicuramente meno riuscito il capitolo italiano rispetto allo straordinario film parigino, ma insomma è pur sempre Woody Allen, è pur sempre un film che ha i suoi motivi di interesse. I vincitori verranno comunicati eccezionalmente per questa puntata sulla nostra pagina Facebook Radio 24, La Rosa Purpurea, cliccate mi piace, potrete scoprire a partire praticamente da lunedì, dal primo lunedì successivo all'emissione della puntata, il vincitore, anzi i vincitori delle due copie di questo film, del quale chiacchieriamo con Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, da Warner Home Video, edizione DVD ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo è di ottima resa, visibile in entrambi i dischi una certa grana innescata con probabilità dall'originale cinematografia che presenta costanti toni caldi rosso-arancione, sono tracce di TS italiano-inglese ad alta risoluzione per i Blu-ray, sono efficaci con una presenza scenica diciamo limitata dalla natura stessa dell'opera e sicuramente tutta da ascoltare, la traccia originale mixta italiano-inglese, come extra abbiamo solo il trailer. E allora questo per quanto riguarda riguarda il game della scorsa settimana, due titoli anche in questa appunto ultima puntata dell'anno, due titoli che sono in videoteca da pochi giorni. C'era una volta in America di Sergio Leone, è arrivato in videoteca tante volte, ce n'è un'edizione nuova. Frankie Monadi è il più grosso, lo vuoi capire? E da oggi è lui che ha in mano tutta la combinazione. Appunto, e così da domani sta sicuro avrà in mano anche lui. Da solo non ti muovi. Un giorno sei arrivato e hai detto non mi piacciono i capi. Allora io la trovai una bella frase. E anche adesso. Beh, pensiamoci bene però, Noodles. Ci chiederanno di entrare con loro. I vantaggi sono enormi. Oggi hanno chiesto a te di far fuori Joe. Domani chiederanno a me di far fuori te. Se questo sta bene a me non mi sta bene. A meno di un anno dall'uscita dalla precedente versione Blu-ray, la seconda proposta di Warner per C'era una volta in America, risultato di un ampio lavoro di recupero storico filologico in omaggio all'originale concept che il compianto maestro Leone nutriva sul film. La storia di Max e Noodles e dell'ascesa a crimine potere della loro banda nel quartiere ebraico di New York degli anni 20 si arricchisce quindi di 26 minuti inediti. Un restauro finanziato da Gucci e dalla Film Foundation di Martin Scorsese è stato possibile recuperando le sequenze inedite da copie positive mal conservate di scarsa resa tecnica ma grandissima valenza storica. Sono sequenze presentate in lingua originale con sottotitoli. Inoltre il film beneficia per la prima volta del doppiaggio italiano realizzato all'epoca dell'uscita del film nelle sale, di qualità accettabile, ma ci sono anche due tracce ad alta risoluzione multicanale italiano-inglese. Non ci sono extra rispetto alla precedente edizione Blu-ray, sono andati perduti il parziale documentario sul maestro Leone e il commento del giornalista e storico americano del cinema Richard Schickel. Parliamo invece di un film recente, la scorsa stagione cinematografica, uno che è diventato in pochi anni un vero maestro del nuovo horror e thriller spagnolo. Jaume Balagueró firmava un noir molto molto originale, tutto ambientato sotto un letto di notte, si intitolava Bedtime. Per la prima volta in vita mia avevo una ragione per vivere. Sono molti giorni che non salgo sul tetto e non me ne ero reso conto. E tutto questo perché? Perché quella puttana continui a sorridere come se niente fosse. Felice. E io punto a capo. Suppongo siano ragioni sufficienti, no? Ti piacerebbe, vero? Sì che ti piacerebbe poterti liberare della merda che hai partorito. Beh no, ancora no. Prima tolgo a quella puttana il sorriso di merda dalla faccia. A tutti i costi. César lavora come portiere di uno stabile, apparentemente gentile e cortese con tutti, in realtà è un uomo maledettamente solo, capace di sopravvivere alla monotonia di una grigia esistenza nutrendosi dell'infelicità altrui, alimentandone le disgrazie nei modi più subdoli, sino al momento in cui incontrerà la solare Clara, capace di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Una filosofia di vita che spingerà César a compiere gesti sempre più insani, interferendo nella privacy della giovane in un'escalation di violenza. Da Jaume Balagueró, regista dei due orrifici Rec, un thriller di notevole spessore con un grandissimo interprete, Louis Tozer, che avevamo già incontrato nel ruolo del cattivo nel recente Miami Vice di Michael Mann. DVD e Blu-ray di Lucky Red sono entrambi di ottima resa, superiore sicuramente alla versione in alta definizione, con una pregevole qualità d'immagine, una doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e spagnolo, e come extra abbiamo solo il trailer. E allora grazie anche a Claudio Pofi per averci raccontato le novità in videoteca in questa ultima puntata del 2012. Claudio, appuntamento all'anno nuovo, appuntamento alla prossima puntata qui alla Rosa Purpurea. Un saluto, buon anno e a presto. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, allora non mi resta che ricordarvi, come abbiamo fatto poco fa, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e unitevi alla nostra community per tutte le novità, le classifiche, i consigli di visione e per poter scaricare la trasmissione in podcast. E poi chiaramente grazie a Pietro Lacorte che ci ha assistito in regia, a Giorgio De Luca che è stato con noi in redazione. Un saluto e un augurio di buon anno da Franco D'Assisti.